miei pensieri, il ricordo di una notte si avvicina. Forse i sogni di una volta danno storie mai perdute, sensazioni senza tempo e mai finite. Accappona la pelle, quella notte d'amore sotto un cielo di stelle, è un momento che è andato, ma poi resterà con noi. Illumina il sole, le storie più belle, una musica sale, punta dritta alle stelle. Momenti del tempo che poi tornerà per noi. Se i sogni di una volta danno storie mai vissute, sensazioni senza tempo e mai perdute, i momenti e le illusioni, tutto quello che hai sentito, danno vita ad una storia che è infinita. Sale sino alle stelle, questa storia d'amore che accappona la pelle, trama di un sogno che poi parlerà di noi. Sussurro di voce si unisce al respiro, poi corre veloce, il tempo è un sospiro. Nel ricordo di un sogno che poi resterà con noi. Senti, non si deve andare lontano, lo intuisci tenendola per mano. Un sogno nel cuore e poi sulla pelle, sotto un cielo d'amore ricoperto di stelle. Una poesia poi suonerà per noi.